Things are going badly. Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco di Lina's Bedroom, Memo Love Chronicles. Come si chiamava questa canzone? Era Message to Jolene. Quali saranno ora le mosse della band per il futuro? Per il futuro adesso stiamo ultimando un acustico che raccoglie qualche vecchio pezzo di un vecchio EP e qualche pezzo appunto di quest'album. Lo stiamo finendo di ultimare. È una cosa abbastanza casalinga, nel senso, come professionalità è alta, però insomma lo stiamo gestendo noi nella saletta di registrazione del nostro grandissimo batterista Luca. E per il futuro stiamo scrivendo pezzi per materiale nuovo sempre per il progetto Lena, e vediamo che piega e che tipologia di progetto verrà fuori per il prossimo album. Insomma, vediamo. Work in progress, esatto. Siamo al quinto brano, cosa scegliete di far ascoltare? Abbiamo scelto Attitude to Cry. Time I wasted, I have been waiting. Il tempo come sempre vola e noi siamo quasi in chiusura di puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends streaming per ascoltare la nostra radio attraverso i media player. Un grazie a Lina Sbedrim per la partecipazione, a questo punto la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco ed un calendario di live già definiti. Sì, ci potete vedere e sentire il 10 giugno a Birra Fiumi, a San Bosetto, in provincia di Parma, il 24 di giugno nel contesto Boulevard, a Parma, nella zona del centro, poi il 7 luglio a Sputnik Rock, a Montecavolo, provincia di Reggio, il 9 luglio alla Festa della Birra di Collecchio, Corte di Giarola, Collecchio, in provincia di Parma, il 23 luglio al Particio Rock, che è a Particello di Gattatico in provincia di Reggio, e il 29 di luglio alla Festa della Birra Artigianale di Monticelli Terme in provincia di Parma. E poi comunque vi invito sempre a consultare il nostro sito internet lenasbaedream.com, dove potete trovare tutti i vari link che rimandano alla pagina MySpace, a Facebook e anche a Twitter, e lì potete sempre essere aggiornati di tutte le date, concerti che faremo. E per quanto riguarda invece il disco, distribuito da Venus, quindi si trova comodamente nei negozi oppure su Believe iTunes. La richiesta è Memo Love Chronicles, distribuito da Venus per Z Factory. Oppure i vostri concerti, come oppure sempre. I nostri concerti, che sono quelli più proficui. Brano per chiudere questa serata? Il brano è Overture. Jean-Luc e il Nas Bedrim vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana quando avremo in studio Simone Piva e Viola Velluto da Gemona del Friuli, che ci presenteranno il loro disco Ci vuole fegato per vivere. Ciao! Ciao! Ciao! Ciao. fare. Get a handman's joke, gives you joy. The end, one is me. Stop, yeah, washing tears around.